la rivincita delle bionde. Oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ebbene, siamo giunti ad una nuova puntata della Rivincita delle Bionde, sempre sui 103.1 di Radio Città Fucico. Ricordiamo che potete contattarci tramite SMS o WhatsApp al numero 333-180-9494. Buongiorno Erika. Buongiorno Carlotta. Mi stavo scordando di darti il buongiorno. Sì, infatti notavo, tu andavi, mi ignoravi, come se io non ci fossi, ma ormai Carlotta vuole fare una trasmissione tutta sua perché non è più bionda. Ecco, dobbiamo confessare che sono diventata rossa praticamente. Comunque, a parte queste gag, oggi è una puntata speciale, quindi è il secondo speciale della Rivincita delle Bionde. Ricordiamo che lo speciale consiste in una puntata un po' atipica, anomala. Cioè sforiamo un po' dal tema originale, principale, anche se in realtà non ci allontaniamo ecco più di tanto. Primo speciale della scorsa puntata abbiamo parlato di due associazioni territoriali bolognesi che si chiamano Meno per Meno e Muri Diversi, che si sono unite e hanno creato il progetto Poeti per Camerino. E appunto il primo speciale della Rivincita delle Bionde ha parlato proprio di questo progetto per Camerino. Oggi invece presentiamo un progetto sempre bolognese, nato da un comitato di cittadini e associazione che nasce dal basso, ma possiamo dire mira al cielo, punta al cielo. Le metafore di Erika. Le metafore di Erika. Perché si tratta del comitato Aria Pesa, che è proprio un comitato che vuole monitorare la qualità dell'aria di Bologna e per salvaguardare innanzitutto la salute dei cittadini. Sì, e tra l'altro vogliono anche integrare tutti quei dati che ARPA magari evita di approfondire. Comunque, in realtà ci vogliamo anche scusare se la scorsa puntata non siamo state in diretta a causa di studio di Erika, che ve lo annuncio pubblicamente, si sta per laureare, attenzione. Non lo diciamo perché porta sfortuna, poi se non mi laureo è colpa di Carlotta che prima di tutto si è tinta i capelli di rosso, secondo ha annunciato in anticipo la mia laurea. Adesso facciamo invece un breve stacco musicale e ritorniamo subito fra poco, quindi rimanete sintonizzati. Just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Ed eccoci ritornati sui 103.1. Appunto, abbiamo parlato di questa rete civica Aria Pesa che vi andiamo appunto a presentare. È composta da associazioni e comitati di cittadini bolognesi uniti dalla vocazione alla difesa del territorio, dell'ambiente e della salute. Dunque una rete di cittadini e comitati critici verso le scelte urbanistiche appunto dell'organizzazione del comune. Tra l'altro loro lo scorso dicembre hanno organizzato una manifestazione di lancio sulla Montagnola per una campagna di monitoraggio appunto della qualità dell'aria. Questa campagna in che cosa è consistito? Innanzitutto hanno distribuito dei kit che sono dei kit misuratori di NO2. In totale sono riusciti a distribuirne più di 300, quindi all'inizio pensavano soltanto 200, però poi la richiesta è stata molto molto ampia, e quindi questo kit è stato posizionato vicino a dei luoghi di riferimento come la propria casa oppure il proprio posto di lavoro, le scuole. Poi è stato rimosso, quindi dopo 4 settimane, e poi i risultati sarà possibile, diciamo, tramite anzi i risultati sarà possibile avere una mappatura della qualità dell'aria in diverse zone della città. Noi abbiamo contattato Chiara che fa parte appunto di Aria Pesa, quindi andiamo ad ascoltare direttamente le sue parole. Cos'è Aria Pesa e quando è nata? Aria Pesa è una rete civica che si è composta attraverso la volontà di alcune associazioni, comitati, tanti cittadini liberi bolognesi che si sono riuniti per la vocazione di difesa del territorio e per un ambiente migliore e soprattutto per la salute. È nata verso la fine dell'anno scorso attraverso vari contatti che ci sono stati tra i comitati presenti in città. Niente, è partita e è in piena attività. Avete fatto una manifestazione verso dicembre, se non sbaglio, di lancio proprio per i dispositivi, no? Quanti ne avete raccolti? Siete riusciti a cogliere tutti i dati? Abbiamo fatto una presentazione in Montagnola primo di dicembre, in cui appunto abbiamo spiegato che cosa volevamo fare. Dopodiché abbiamo raccolto le varie adesioni, siamo riusciti a arrivare alla bellezza di 340 campionatori che attualmente sono esposti e sono funzionanti sul territorio cittadino e della città metropolitana, e poi non solo, perché addirittura siamo arrivati a Modena. La campagna di rilevamento è partita il 28 di gennaio e si concluderà il 25, cioè domenica prossima. Dovremo raccogliere i campionatori, che sono delle provette, e dovremmo appunto spedirli poi al laboratorio per avere i dati. C'è da dire che il tempo è stato poco clemente, perché è piovuto sempre, quindi speriamo di riuscire ad avere dei dati comunque leggibili. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Thou may change me, sides, but never leave the stream of warm permanence, and so the days float through my And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. To her next event, time may change me. You can't twist time. Strange fascination, fascinating me. Our changes are taking the face I'm going through. Changes. Turn and face the strange. E rieccoci su una nuova puntata, una puntata speciale tra l'altro della Rivincita delle Bionde, come sempre sui 103.1. Qui Carlotta mi sussurra qualcosa, sì, perché dovete sapere che per chi si è connesso adesso Carlotta non è più bionda. ci ha tradito, volevo, popolo. Non volevo deludervi, però succede. Tra l'altro oggi non siamo neanche riusciti a pubblicare il post della puntata perché Carlotta ha deciso di togliersi da Facebook. Non è permanente, è temporaneo. Ogni tanto bisogna disintossicarsi dai social, giusto? Ecco, a proposito di intossicazioni e disintossicazioni, la puntata speciale di oggi parla di un'associazione, anzi un comitato di cittadini e associazioni bolognesi che si chiama appunto Aria Pesa, che parla proprio di un problema che sta diventando sempre più grave non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Anche perché di solito l'inquinamento ovviamente non si vede, quindi spesso la gente non se ne preoccupa perché non lo vede, ma in realtà si sente. Esatto. Anche tanto. Si sente, esatto. Aria Pesa quindi ha avviato a dicembre la sua campagna di rilevamento attraverso appunto dei kit che rilevano la presenza di NO2 nell'aria. L'NO2 sarebbe il biossido di azoto ed è uno dei più importanti componenti dello smog che influenza maggiormente la salute dell'uomo, pensate. E quindi questi kit sono stati disposti in diverse zone di Bologna, quindi dalle case, dalle scuole, ma in particolare insistono anche su tutti quei punti dove ci sono i progetti urbanistici più contestati dell'amministrazione Merola, per cercare di fornire dei dati che attualmente a tutti gli effetti mancano. Esatto. E tra l'altro l'obiettivo di Aria Pesa non è soltanto monitorare appunto la qualità dell'aria, ma in realtà è anche quella di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni e anche le scuole in primis, no, ai ragazzi, al tema appunto della qualità dell'aria come bene essenziale, bene comune di cui ovviamente è legittimo occuparsi e preoccuparsi in prima persona. Tra l'altro ricordiamo che secondo dei dati dell'Unione Europea l'Italia è uno dei paesi più inquinati di tutta l'Europa e soprattutto la pianura padana è una delle zone più inquinate. Esatto, perché è una delle zone con maggiore concentrazione di attività industriali ma anche di smog causato dalla mobilità. Tra l'altro un altro obiettivo è quello appunto di integrare i dati dell'ARPA che non sempre rendono evidenti appunto i dettagli territoriali. Comunque adesso ascoltiamo la seconda parte di intervista fatta a Chiara, ascoltiamo le sue parole. Per la lettura dei dati vi appoggiate a dei laboratori e quali sono i vostri obiettivi? Il laboratorio di analisi che leggerà le quantità di ossido d'azoto accumulate si trova in Inghilterra. ci manderà le letture dei vari, delle varie provette, e dopodiché questi dati verranno elaborati dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna. A questo punto riusciremo attraverso i dati di DARPA a fare una media anche annuale, non solo puntuale, del rilevamento. Che cosa vogliamo ottenere? Vogliamo ottenere una valutazione, questa mappa puntuale, in cui per comparazione riusciremo a vedere che ci sono dei cittadini che respirano peggio di altri sull'estensione della città. Quali sono le associazioni che fanno parte appunto di Aria Pesa? Allora, devo dire che c'è stata una collaborazione molto ampia. Dunque, le associazioni di partenza sono quelle di AMO Bologna Onlus per la mobilità sostenibile, il comitato Becco che si oppone all'ennesimo supermercato in Cirenaica, ci sono i vari comitati, coordinamento di comitati che si oppongono all'allargamento dell'autostrada e tangenziale a Bologna, c'è il comitato Rigenerazione Non Speculazione che sta cercando di tutelare la zona dei prati di Caprara, poi abbiamo Lega Ambiente con noi, c'è Campi Aperti, Tutta l'associazione di agricoltori e consumatori che sostiene l'agricoltura biologica e contadina, abbiamo l'associazione Le Ortiche, i salvaciclisti, il TPO, il LABA, abbiamo avuto un sostegno grandissimo da parte della velostazione Dinamo, abbiamo Camere Aria, insomma siamo in tanti tanti volenterosi e poi tantissimi cittadini, ecco. Thank you. Ben ritrovati a tutti e a tutte sulla Rivincita delle Bionde. Ricordiamo che potete contattarci tramite il numero 333-180-9494, sia tramite SMS o anche WhatsApp. Esatto, ma potete continuare a seguirci anche sulle nostre pagine social, quindi su Instagram e su Facebook, ecco, dove Carlotta non è più presente. Però ci sarà Erika a fare le veci di tutti. Ce penso non io. Vi preoccupate. Comunque, tornando seri, allora volevamo dire anche che il biossido di azoto espone la popolazione a un danno assolutamente certo, cioè l'esposizione di alti livelli di biossido di azoto si riconducono danni gravi, anche irreversibili, in ogni fase dell'esistenza umana, quindi dalla gravidanza all'infanzia sino all'ultimo respiro della vita. Si segnalano in particolare, per esempio, l'incremento dell'insorgenza di tumori al polmone, asma, ischemie, infarti, ipertensione, bronchiolite e tutti questi sintomi e patologie molto molto molto gravi. E in realtà però questa iniziativa è stata già attuata in diverse città europee con risultati molto interessanti anche per l'aspetto innovativo di questa modalità di studio partecipativo, no? In Italia in particolare è stata realizzata a Milano dai Cittadini per l'Aria e grazie alla loro esperienza e supporto quella di Bologna cerca di proporre l'esperimento anche sul nostro territorio. Esattamente, e tra l'altro grazie all'Associazione Cittadini per l'Aria è stata portata avanti nel 2017 una campagna che si chiama proprio NO2, quindi biossido di azoto, no grazie. E i risultati di questa campagna purtroppo parlano chiaro, ovvero soprattutto in inverno in città come Milano e dintorni, quindi città estremamente urbanizzate dove c'è molto molto circolo di automobili, il limite medio di NO2, quindi di biossido di azoto, viene superato di oltre 3-4 volte, tantissimo. E appunto i risultati di questa campagna NO2 no grazie hanno ulteriormente evidenziato questo problema diffusissimo ormai dell'inquinamento e ad esempio su 219 punti di campionamento la concentrazione media annua è risultata, pensate, superiore al limite nella maggioranza dei casi, nel circa 84% dei casi. Quindi respiriamo aria pulita, dicono. Sì, esatto. Esatto. Comunque adesso ci ascoltiamo l'ultima parte di intervista a Chiara e poi ci risintonizziamo. Per quanto riguarda invece il territorio nazionale, esistono altre iniziative simili in Italia? Sì, assolutamente. Noi ci siamo ispirati all'esperienza che è stata fatta dai Cittadini dell'Aria di Milano l'anno scorso sul territorio milanese e che quest'anno ripete il suo monitoraggio concentrandolo soprattutto su zone occupate da scuole. Poi sotto l'organizzazione dei Cittadini dell'Aria di Milano ci sono anche le città di Roma e di Brescia che stanno facendo proprio in questo momento la campagna di rilevamento. Fate altre iniziative per sensibilizzare cittadini anche per esempio nelle scuole, i ragazzi? Sì, allora noi naturalmente come associazioni stiamo cercando di fare in modo che ci sia una sensibilizzazione cittadina in generale e per cui attraverso formazione, per cui facciamo degli incontri, poi l'autoformazione, la consapevolezza, cioè arrivare a dei dati per avere consapevolezza di quello che si respira, perché naturalmente l'inquinamento purtroppo non si vede, si sente soltanto. Quindi siamo in contatto come associazioni, con scuole e facciamo informazione così come possiamo attraverso anche volantinaggio. Certo, ma invece avete già in programma degli eventi futuri? Allora, quello che vorremmo fare, però siamo in fase di decisione appunto perché adesso dovremo lanciare la campagna di raccolta appunto che dovrebbe finire il 25. Stiamo valutando se fare una grande riunione in modo da cominciare ad avere le famose idee, no? Per cambiare il modo di vivere, per stimolare un processo virtuoso. Insomma, abbiamo bisogno che tutti producano strategie e soluzioni efficaci e soprattutto che varie amministrazioni pubbliche e le imprese si impegnino a cambiare davvero qualcosa che sta uccidendo, perché purtroppo sappiamo che l'inquinamento è dannosissimo per la salute e abbiamo diritto tutti a respirare meglio. Noi la ringraziamo tantissimo. Questa sarebbe la nostra rivincita, non saremo tutti biondi, ma... Yeah. rieccoci sulla rivincia delle bionde, la rivincia delle bionde mezzo rosse. Abbiamo detto una puntata speciale, la novità di oggi insieme allo speciale, esatto, sotto tantissimi punti di vista. Quindi ringraziamo Chiara di Aria Pesa, questo comitato appunto di cittadini e di associazioni bolognesi, lo ricordiamo, e ricordiamo che la raccolta dei kit terminerà il 25 febbraio, quindi domenica prossima, esattamente, e dopodiché i kit verranno inviati a un laboratorio che si trova in Inghilterra, che appunto li analizzerà, e quindi nei mesi successivi sapremo effettivamente i risultati. Comunque, quello che ha detto anche Chiara alla fine dell'intervista, in realtà la loro è pure una rivincita, perché appunto sono partiti dal basso, cioè dai cittadini, no? Tutti noi ci siamo messi in gioco per cercare di cambiare le cose, perché ovviamente l'aria è un, esatto, bene, è un bene essenziale, è un bene comune, e soprattutto deve interessare a noi, perché la respiriamo noi, quindi è la nostra salute, la salute dei nostri figli, l'essere in gioco. Ma Carlotta voleva fare un annuncio, un, esatto, lancio. Allora praticamente stasera c'è la presentazione del Festival di Antropologia di quest'anno, che si terrà il 20, il 21 e il 22 aprile, e c'è anche la Call for Volunteers, scusate, quindi la chiamata per i volontari, esatto. Diciamolo detto in italiano. Quindi chiunque vuole proporsi lo può fare stasera come appunto volontario, presentandosi alla presentazione, per avere appunto tutte le informazioni. Quest'anno viene lanciato il nuovo format nato dal Festival dell'Antropologia dello scorso anno, che si chiama ReFestival, e che quest'anno analizzerà il tema migrazioni, movimenti, sviluppo e integrazioni, anche da un punto di vista storico, politico e anche della comunicazione. La presentazione è alle 19 in via Belmeloro 1/E, alla sede della rete degli universitari, che ricordiamo sono anche gli organizzatori. Noi siamo giunti al termine invece di questo secondo speciale della rivincita delle bionde, e quindi ci salutiamo qui, vi auguriamo una buona giornata e vi ricordiamo che la rivincita delle bionde sarà in onda come sempre ogni lunedì, quindi anche lunedì prossimo dalle 13 alle 13:30, quindi rimanete sintonizzati sui 103.1. ciao ciao.